scricchiola. Il parquet del nonno scricchiola. Ogni volta che lo vado a trovare è sempre nel suo studio, dove il parquet scricchiola. Alle pareti carte dell'Italia, gialle, arancio, viola, con delle lineette rosse. Sugli scaffali libri, libri, libri grandi, piccoli, antichi, recenti, preziosi, libri. Quando ero piccolo lo chiamavo nonnetto e lui si metteva a ridere, che però non si capiva perché teneva la bocca chiusa, perché il nonnetto è professore. Il nonno, quando lo vado a trovare, è sempre seduto sulla sua scrivania, mangiata dai tarli. Oh, brutta bestia, tarli. Una volta dentro è difficilissimo cavarli via. E sulla scrivania sassi, che io gli chiedevo, nonno, nonno, ma che ci fai coi sassi? E il nonno diceva che non sono sassi, sono libri. Spacca la pietra e leggi. Minerali, fossili, conchiglie, c'è scritto tutto, basta saper leggere. Quante ne sa il nonno? Ma sei scemo. Il nonno ha la gobba che avvicina l'orecchio al cuore per sentire meglio, dice lui. In realtà il nonno si sente poco, è un po' sordo, però ascolta e poi parla. E da piccolo mi raccontava favole che poi più avanti ritrovavo scritte nei libri di storia. C'era una volta un popolo. E comincia, che abitava lungo la valle del fiume Eterno, in una città chiamata Amiternum, che c'è ancora. Dopo la caduta dell'impero romano, Amiternum soffrì un periodo di profonda crisi. Allora gli abitanti dei villaggi si unirono e fondarono una nuova grande città, la città dell'Aquila. L'Aquila nel Medioevo aveva una struttura urbanistica molto particolare. Era suddivisa in tanti piccoli quartieri e ogni quartiere rimandava al villaggio di origine. Generalmente ogni quartiere era formato da una piazza, una chiesa e una fontana. Una piazza, una chiesa e una fontana, una piazza, una chiesa e una fontana. Insomma, dopo un periodo di grandi scontri tra famiglie, l'Aquila visse un tempo di grande splendore durante il regno di Napoli. La sua influenza era tale che... Non lo so. Non lo sai. No. Emetteva moneta e già allora era sede di un'importante città universitaria. E così, tra quelle piazze, quelle chiese, quelle fontane, quelle piazze, quelle chiese, quelle fontane, c'era la cultura, la conoscenza, mentre lassù in alto pastori e montanari facevano la transumanza, perché l'Aquila cresce ai piedi dei monti, da una parte il Gran Sasso e dall'altra il Sirente. Nonno, nonno, che bello, ma senti, ma le montagne lassù come ci fanno ad arrivare? Tu sai. Non sai. E mo che? Le rocce sono come un foglio. Si accartocciano, si scontrano, si accavallano, si impilano le une sulle altre fino ad arrivare ai 3000 metri del Gran Sasso e ai 2100 del Sirente. No. Le rocce non sono un foglio. Le rocce sono come una matita, sottoposte a sforzo tettoniche delle placche, si piegano fino a che si spezzano lungo una frattura, una faglia, liberando energia. Nonno, ma che c'entra con l'Aquila? C'entra perché c'è cape. L'Aquila cresce proprio su una di queste faglie, la faglia di Paganica e la faglia di Pettino. E laggiù, in profondità, le rocce si incontrano, si scontrano, si accartocciano, si accavallano fino a che nel 1325 un terremoto uccise circa il 10% della popolazione di allora. Ma l'Aquila fu ricostruita. E il 400 corrisponde all'età d'oro della città. E dopo la ricostruzione prosperarono i commerci, specialmente della lana. E l'Aquila estese le proprie relazioni fino a Firenze, Genova, Venezia, Oltralpe, fino in Francia e in Germania, diventando in breve la città più importante del regno dopo Napoli. Poi vennero altre distruzioni, altre lotte intestine, altri terremoti, fino alla dominazione... Olè! La Spagna. Proprio un cretino sei. Fino alla dominazione spagnola. E la città tentò faticosamente di rialzarsi. Fino al 1703. Quando ancora un altro terremoto rase al suolo la città. Ma... L'Aquila fu ricostruita grazie alla tenace volontà dei pochi abitanti rimasti e a Papa Clemente XI, il quale, ritenendo che la città, fedele allo Stato Pontificio, dovesse assolutamente rinascere, impose a un certo numero di preti e di suore di svestire l'abito talare e contribuire alla rinascita della città di che? Alla rinascita dei nuclei familiari. Figurati questi preti e queste sore tutte infogliate. Fratelli, ic vadas moda inique amnibus. Baroccum. E costruirono gli interni di San Bernardino, Santa Maria di Colle Maggio e la Chiesa delle Anime Sante. A quel punto Filippo V di Borbone, regno del Regno di Napoli, cui apparteneva l'Aquila, mandò un commissario per la ricostruzione, ma sti preti e ste sore, tutti infogliati, rifiutarono categoricamente tale invadenza e tale prepotenza. Allora il re fu costretto ad alzare le mani e ad arrendersi. Poi nell'Ottocento... Basta, nonno. Mo, basta. Basta. Basta, cioè... No. Sta parlando... No. Due ore. Effettivamente è un po' logorroico. Eh sì. Vabbè che so favole, però attacca certi bottoni. E poi per me questi posti restano solo indicazioni sull'autostrada, sulla A24. Di solito capita la domenica mattina, quando sei sveglio da poco, ancora non lo sai di essere sveglio e ti senti ticchettare sulla tempia, amore della mia vita. Che fai, dormivi? Senti, io devo andare a teatrazione alle 10, poi ho prove alle 12, poi si potrebbe andare insieme all'IKEA senza fare tardi, perché alle 4 devo vedere Marco e alle 5 Isa. Che fai, ma accompagna, amore mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Corda, imbrago, scarpette, macchina. Autostrada A24. Castel Madama, Vicovaro Mandela, Carsoli, uscita di Pietrasecca. Tufo Alto è una frazione di Pietrasecca, un paesino arroccato su una parete di roccia. Su quella parete si arrampica, si sale su come ragnetti partendo da guati alle case del paese. Ai piedi della parete scorre un corso d'acqua che fuoriesce da un buco nella roccia. Se ti infili in quel buco e risale il corso d'acqua, scappi fuori dall'altra parte dell'autostrada, nell'antro dell'Ovito. E avanti. Monte Cava, Monte Morrone, Monte Velino, Valle del Salto. E avanti, uscita di Tor d'Imparte, altra uscita, altra grotta della Vacca Morta, poveretti. Avanti, in vista il Gran Sasso, Valle dell'Aterno, Città dell'Aquila. Alt, zona rossa, divieto d'accesso. Non si può. Posso vedere la mia via? Non si può. Posso pregare in abbazia? Non si può, entrano solo ingegneri, architetti, militari, militanti, soldati e autorità. Alto, zona rossa, divieto d'accesso. Vorrei vedere i leoni della piazza. Non si può. Voglio affacciarmi alla vecchia terrazza. Non si può. Voglio stare in centro con la mia ragazza. Non si può, entrano solo ingegneri, architetti, militari, militanti, soldati e autorità. Alt, zona rossa, divieto d'accesso. Ma casa mia è sana. Non si può. Ma nella via c'è l'antica fontana. No, non si può. Ma in parrocchia c'è la signora Silvana. Non si può. Perché? Entrano solo ingegneri, architetti, militari, militanti, soldati e autorità. Uffa però. Scricchiola. Il parquet del nonno scricchiola. Ogni volta che lo vado a trovare, lui è nel suo studio. Dove il parquet? Bravo. Scricchiola. Alle pareti, carte dell'Italia, gialle, arancio, viola, collinette rosse. Sugli scaffali, libri, libri. Libri grandi, piccoli, antichi, recenti, libri. Il nonno è seduto alla sua scrivania, mangiata dai tarli. Oh, brutta bestia, tarli. Una volta dentro, difficilissimo cavarli via. Sulla scrivania, sassi, che io gli chiedevo, nonno, che ci fai quei sassi? Lui mi diceva, non sono sassi, sono libri. Spacca la pietra e leggi. Il nonno alla gobba, che avvicina l'orecchio al cuore. Per sentire meglio, dice lui. In realtà il nonno sente poco, però ascolta e poi parla. E un giorno mi ha raccontato una storia così assurda e bislacca che qualcuno la considera una favola. C'era una volta una città di nome L'Aquila. Una città con i palazzi, i mercati, le piazze, le chiese, le fontane, le piazze, le chiese, le fontane e i suoi cittadini. Marco, il commerciante, la dottoressa Assunta, un cadetto di nome Francesco, lo sciamano e il sindaco. L'Aquila era una città splendida, creata dal gusto eccentrico e sforzoso dei papi e degli spagnoli. Abbondava il cibo, il vino, il divertimento. I cittadini facevano lo struscio per il centro la sera, aperitivo, e la domenica messa. Oe! Oe! Beh? E quando sci venuto? Ieri. Ah, e quando te ne rivai? Domani. So con te. Anche chi andava via dall'Aquila lo faceva per portare nuova ricchezza, perché dall'Aquila non si va via, si resta. All'Aquila c'erano commercialisti, notai, medici, avvocati, dinastie di avvocati, e poi buffoni, ballerini, musicisti. Insomma, vi era la bellezza, regnava il benessere. Poi un bel giorno, nel dicembre 2008, la terra. Allora Marco, il commerciante, la dottoressa Assunta, il cadetto Francesco e tutti gli altri cittadini spaventati vanno in piazza per parlarsi, confrontarsi, ma una voce stridola e nasale si diffonde per tutte le piazze e i vicoli della città. Non si sa chi parla. C'è chi giura di aver visto un uomo piccolo con un naso nero da pagliaccio e un microfono collegato a 1000 altoparlanti sparsi per la città. C'è chi giura di aver visto 1000 nani pagliacci, ognuno col microfono. Fatto sta che quella voce inizia a parlare e non finisce più. Venga, signori e signori, venghino! Nel favoloso mondo del pagliaccio nero, preferite Totti o Del Piero? I cittadini non capiscono, però scelgono. C'è il capitano. Sì, ma Del Piero è un professionista, uno sportivo vero. Venga, signori e signori, venghilo! In questo mondo circondato da vette, preferite il culo o le tette? Erculo de Totti, l'uccello di Del Piero, e giù grasse risate, rozzi doppi sensi, ma intanto quei cittadini possono tornare nelle loro case allegri e spensierati. Ma nel gennaio 2009 la terra trema di nuovo. Allora Marco, il commerciante, la dottoressa Assunta, il cadetto Francesco e gli altri cittadini, ricchi e poveri, tutti insieme, perché la terra è democratica. Si precipitano di nuovo in piazza, sono sconvolti, hanno paura, non sanno che fare. Oh, boh! Nella piazza si è diffusa la paura! Devo intervenire, così è città mal sicura! Allora il pagliaccio nero attacca con i suoi pezzi forti. Alla fine, se ci pensi, non ci sta mica male, in fondo, non so come dire, vi do un aiutino. E in questa cacofonia afferma che va tutto bene, siate ottimisti, non c'è pericolo, fidatevi del divino. alla parola divino, compare sull'aquila una stella cometa, poco brillante, ma appariscente e comunque sufficiente ad illuminare la via ai re magi. Baldassenzo Boschi, per 27 anni re dell'INGV, INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, un ente di ricerca scientifica di importanza strategica nella vita del paese, grazie anche alla convenzione con la Protezione Civile, con lo Stato. I fondi amministrati superano i 90 milioni di euro, 21,5 dei quali sono versati ogni anno dalla Protezione Civile. Di questi, ben 15 vengono assorbiti dal servizio di monitoraggio sismico. Gaspar Franco Barberi, re della Commissione Grandi Rischi. I dati raccolti dall'INGV vengono analizzati e valutati dalla Commissione Grandi Rischi, che rappresenta il braccio tecnico-scientifico della Protezione Civile. Melchior Guido Bertolaso, re della Protezione Civile. Boschi, Barberi e Bertolaso costituiscono i vertici del triangolo del sistema di studio, allerta e soccorso in materia sismica. Oh, la ci sentita? La so sentita. A mamma te l'ha sentita? L'ha sentita. E padre te l'ha sentita? L'ha sentita, l'ha sentita. A febbraio 2009 la terra continua a tremare. Allora il re Baldassenzo Boschi consulta il suo sismografo di cristallo. Ach, maial, chi so cazza mar. Ach, maial, chi so cazza mar. E compila una lunga pergamena con carte dell'Italia, gialla, arancio, viola, contrattini rossi, mappe del rischio sismico, storicità degli eventi e... invia tutto al re Melchior Guido Bertolaso. E invia tutto al re Melchior Guido Bertolaso. Niente. Non succede niente. Il re è al mare, mio signore, alla Maddalena, a preparare l'incontro degli 8 sultani più importanti di tutto l'universo. Nella lontana terra dei quacquaracqua, 3 principi giocavano nella stanza dei giochi. A Baldassenzo Boschi fu dato l'incenso, ma lui si prese la palla di pelle, è mia, la mazza di ferro, è mia, le costruzioni di legno, è mia, è tutto suo, che ce vuoi fa, la corda virilli, il pupazzo, la bambola, è mia, pure la bambola, è tutto mio, tutto mio, tutto mio, tutto mio, è tutto su, a Gaspar Franco Barberi fu data la mirra. Scusa. Sì? Ma cos'è la mirra? Gasparino, ti ho detto mille volte che tu devi studiare e dire solo sì. A Melchior Guido Bertolaso fu dato l'oro e accecò il pupazzo che cadde in acqua. Faccio io! Che straripò e stesi birilli. Faccio io! Che demolirono le costruzioni. Faccio io! Ma tutto lui, che ce vuoi fare? Che seppellirono la bambola. Faccio io! Pure la bambola. Faccio io, tutto io, tutto io. Nella lontana terra dei quacquaracqua, i 3 re salirono nella stanza del potere. Passano i giorni e la terra all'Aquila continua a tremare. Sale l'ansia e l'inquietudine. C'è il pagliaccio nero che continua a dire: state tranquilli, non c'è pericolo. Ma la paura resta. Anche il sindaco della città, Massimo Cialente, ha paura. È preoccupato per una scuola elementare, l'Edmondo De Amicis, una scuola mal costruita e poco sicura. È preoccupato perché non può chiudere definitivamente la scuola, perché non sa dove trasferire i bambini e poi perché non può andare da un genitore e chiedere scusi, lei chi è? Il babbo di Mattia. Ah, sì, quinta elementare. Sa, suo figlio sono 5 anni che va in una scuola mal costruita e poco sicura. E allora? Idea. Si affida allo sciamano della città, un suo amico, uno studioso della terra che da anni lo tallona affinché anche l'amministrazione comunale partecipi economicamente alle sue ricerche. Lo sciamano si chiama Giampaolo Giuliani. E lo sciamano guarda le stelle. Prima con un potente telescopio, quello di Monte Mario, per vedere il punto più lontano della volta celeste. Poi, non contento, si avvicina lui stesso alle stelle, andando in montagna, a Campo Imperatore. Ma le stelle rimangono troppo lontane per studiarle da vicino, per toccarle con mano. A meno che... Se ne studi la polvere, un dono del cielo in forma di polvere dovuta alla collisione degli astri celesti con l'atmosfera terrestre. Allora lo sciamano raccoglie questa polvere in una scatola e sta a sentire, questa è una sciocchezza, la polvere cosmica è invisibile. Il nonno le sa certe cose. È professore. Infatti, se ne sa lui. Chi deve sa. La polvere di stelle non si vede. È materiale subatomico, invisibile, però è radioattivo, ossia emette energia. Allora lo sciamano, che sa tante cose, mette nella scatola un marchingegno in grado di accendersi se attraversato da materiale radioattivo, ossia che emette energia. In buona sostanza, passa la stella, impatta sull'atmosfera, esplode, scende la polvere va a finire nella scatola, emette energia, il marchingegno suona e lo sciamano gongola. Quanta polvere, tutta polvere di stelle. Oh, ma guarda, tutta la polvere del... Ma guarda, tutta la polvere... Ogni tanto, però, il marchingegno suona per motivi inspiegabili. Perché a guardare il cielo... Nessuna stella è esplosa. Oh, cacchio. Sarà che si è rotta. Dici? Forse, non lo so. Porca vacca! Esclama lo sciamano. Vuoi vedere che il marchingegno ha suonato? Non per qualche cosa che scende dal cielo, ma per qualche cosa che sale dalla terra? Un gas? Lo sciamano, che sa molte cose, sa che l'unico gas radioattivo che quindi fa suonare il marchingegno presente all'interno della Terra è il radon, che si propaga verso l'alto fino in superficie e il marchingegno suona. Così lo sciamano stava su in montagna fra i suoi sciamanici pensieri quando un bel giorno lo venne a trovare una sua amica, Olga. E te dico fermate. Olga Riazkeya. Russa, capo di un settore di un gruppo di ricerca del quale fa parte anche Giuliani, affiliato all'ex KGB. Ciao Olga, come va? Tutto bene? Oggi non ho tanto, oggi pensieri in testa. Oh, come mai? Problemi in laboratorio. Il KGB ti spia. Tuo figlio vuole entrare nella CIA. Idiota. Ieri tuo marchingegno ha suonato per un'anomalia di flusso di radon proveniente da terra. E poco dopo, disastroso terremoto in Turchia. Curiosa coincidenza, non trovi? E quel giorno, Olga rovinò la vita a Giuliani. Così lo sciamano tornò giù in città, a casa sua, e con un tremendo cruccio in testa. Amatriciana o carbonara? Pentola, acqua, fuoco, coperchio, acqua che scotta ma non bolle, aglio, olio, cipolla, pancetta, soffritto ma non troppo, quel che basta, il trucco è mettere un po' d'acqua nell'olio, aspettare che la cipolla si rosoli, dopodiché via, blu blu blu blu blu blu, acqua che scotta, acqua che bolle. Appena sposta un po' il coperchio per mettere il sale, una colonna di fumo sale verso l'alto. Oh oh oh! Come il radon, che riscaldato da sotto dai processi termodinamici del mantello, appena trova una di quelle fratture, una faglia, sale in superficie e il marchingegno suona. Da quel giorno lo sciamano iniziò a realizzare una macchina in grado di captare il radon che viene dalla terra e verificare se c'è una qualche correlazione con i terremoti. Lo sciamano pensa alla vecchia scuola elementare, all'Edmondo De Amicis. Pensa che non può chiudere definitivamente. Pensa che ogni volta che c'è un terremoto cade un calcinaccio. E pensa che sotto ci sono dei bambini. E pensa. E pensa che ti ripensa. Pensa che ti ripensa. Pensa alla possibilità di poter determinare con certezza se quelle anomalie di flusso di radon che fanno suonare il marchingegno avvengono prima, durante o dopo un terremoto. Ma per fare questo ha la necessità di isolare il radon eliminando il disturbo di tutta l'altra radioattività della Terra. E così torna in montagna. Riprende la scatola per la polvere di stelle e la mette dentro un'altra scatola di piombo, spessore 7 centimetri, perché il piombo scherma tutta la radioattività naturale, non passa niente, l'unica cosa che può passare è il radon, perché il radon è un gas nobile, inerte e non reattivo. Lui passa e se ne frega degli altri e una volta dentro si riproduce e fa dei figli, il piombo 214 e il bismuto 214 a loro volta. I rampolle di casa radon si divertono, fanno le loro sozzerie e si riproducono in festini a base di... Ma che sei scemo? Energia. A quel punto il marchingegno si ricorda del suo ruolo. Energia. Allora lo sciamano si affaccia, guarda e vede. In buona sostanza, l'intuizione geniale dello sciamano è stata quella di misurare radon attraverso la presenza dei propri figli. La macchina dello sciamano si chiama PM4. Ora basta vedere se questi flussi anomali di radon che fanno suonare il marchingegno avvengono prima, durante o dopo un terremoto. E così affianca al PM4 un sismografo per registrare i terremoti dell'area e quindi sapere se ad ogni variazione di radon corrisponde un terremoto. Negli anni di collaudo del sistema, lo sciamano ha riscontrato che solo il giorno prima dei terremoti si evidenziano anomalie di flusso di radon, mai durante e mai dopo. Negli anni di sperimentazione iniziati nel 2002, Giuliani ha riscontrato un'affidabilità del suo sistema superiore all'80%. E così, incoraggiato dai risultati, posiziona 4 macchine, 4 PM4 nel bacino aquilano e con semplici triangolazioni ed elaborazioni dei grafici riesce a prevedere fino ad un giorno prima il probabile epicentro e magnitudo di un terremoto. Ma allora perché non l'ha detto ai Re Magi? Nonno. Nonno, questa è un'altra storia. Lo sciamano burbanzoso va dal sindaco. Signor sindaco, ho la macchina che prevede i terremoti. E il sindaco gli dà fiducia e gli permette di installare uno dei 4 PM4 nelle cantine della scuola Edmondo De Amicis, a patto che ad ogni anomalia di flusso di radone, quindi probabile scossa, tu mi avvisi con 24 ore di anticipo, così precauzionalmente io chiudo la scuola. E così per tutto febbraio e marzo i due si chiamano e ogni tanto la scuola chiude per motivi precauzionali e dopo 3 giorni riapre. Questo fino al 29 marzo, quando Giampaolo Giuliani viene denunciato per procurata allarme dal sindaco di Sulmona, una città vicino all'Aquila, per aver annunciato, secondo la versione ufficiale dei media, che nel pomeriggio ci sarebbe stata una scossa di forte intensità. Ma sta a sentire, ma per quale motivo questo sindaco lo ha denunciato? Nonno, pure questa è un'altra storia. A quel punto, dalla Maddalena, irritato dall'azione sovversiva dello sciamano, interviene il re Melchior Guido Bertolaso. Ma chi è questo ciarlatano? Guarda che casino mi ha combinato! Ha detto a tutti che accadrà un evento sismico catastrofico, ma come si è permesso? Lui, che non è neanche laureato! Arcieri, puntate! Avviso di garanzia per procurato allarme. Una freccia dritta al pudore dello sciamano lo mette fuori gioco e Marco il commerciante, fiero, prende le difese del re. Oh, ha fatto proprio bene il nostro re. Beh, ma lui è uno che se ne intende, lui le sa bene queste cose. Lui è il re della protezione civile più forte del mondo. Ce le invidiano anche in America e in Giappone. Il cadetto Francesco osa domandare. Davvero, messere? Compassionevole umano? Chi lo afferma questo? Forse un giapponese o un americano? Ma no, signore, si sa, è così, lo sanno tutti. Ah, certo, sua maestà il re, casacca azzurra della nazionale e sul petto lo scudo tricolore. E presto vincerà il campionato mondiale quando spiegherà la prevenzione del tremore, visto che noi, messere, abbiamo la protezione civile più forte del mondo, tanto forte che in 4 mesi di scosse sismiche non ha mandato un ingegnere a fare valutazioni tecniche e a controllare gli edifici pubblici della città tutto in tondo. Ma non si possono controllare tutti gli edifici pubblici della città così a caso? Sono tanti, Non a caso, messere, non a caso. Evitiamo banali sproloqui. Quel che dico è tutto scritto qui. Nel 1999 è stato redatto il censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici e speciali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, un libro enorme, verde oliva, con una torre di Babele sulla copertina. Lo studio è stato redatto dal re Gaspar Franco Barberi e per questo è anche detto Rapporto Barberi. Il Rapporto Barberi è stato spedito in ben 1500 copie a province e comuni delle regioni a rischio sismico, tra cui l'Abruzzo. Nel Rapporto Barberi sono elencate, anche per l'Aquila, le zone a differente vulnerabilità e di ogni zona gli edifici a più alto rischio sismico. il conservatorio, la prefettura, le due sedi universitarie, la biblioteca provinciale, l'ex accademia e altri ancora. C'erano tutti nel rapporto Barberi. Io, gran sciamano, eretico alchimista, trovai una soluzione a un'idea che avevo in testa. Così inventai la macchina per la previsione, per cui iniziai l'esperimento di tecnica, fisica e astronomia. Fu autentico e appassionato, portando cielo e terra uniti nella via, uniti nella via del piombo come corazza muscolare per il cuore. Usai le radiazioni, tubi e bulloni, il sistema vascolare è una luce intermittente per le conversazioni. Tu mi hai creato per darti la previsione, epicentro e magnitudo ti dico con precisione, e il cuore mio batte per te, oh sciamano, ma ti prego, fammi conoscere il resto del mondo umano. Ma si presentò una controindicazione, da stupore e meraviglia fui accecato. La scienza non volle alcuna spiegazione da un imbecille, ciarlatano e non laureato. Nella città c'è gran trambusto, lo struscio al centro è sincopatico, l'aperitivo alcolico, le messe strazianti, nelle piazze, nei vicoli, nei bar, nelle camere da letto, imperversa la voce del pagliaccio nero. Signori e signori, sorridete, bevete il vino e fate l'amore, questo è un gran paese, va tutto bene, parola d'onore. E orde di cittadini rimbambiti da quella voce, uno, due, tre, cantano. Senti che ti dice il divi pagliaccio nero, guai se dici che un comune menzognero. Ascolta che dice il divi pagliaccio nero, oh pagliaccio nero. Il divi pagliaccio nero ci illumina la strada, guai se con lui fa la solita ingrata. Il divi pagliaccio nero ci mostra la strada, oh pagliaccio nero. Il pagliaccio è un amico perché toglie dallo strazio di fare una scelta dolorosa, faticosa, oh il pagliaccio nero. Grazie. Ma grazie, grazie di che? Grazie. Ma che ringrazi? Stavo a cantare. Il cadetto Francesco. Sì. La dottoressa Assunta. Sì, Assunta. Non cantano. Madonna mia. Però. Loro, come altri, conoscono quel tremore, perché il terremoto è per i cittadini dell'Aquila un compagno di strada. I bambini imparano presto che Carnevale è la festa degli altri, perché all'Aquila c'è ancora il lutto cittadino per ricordare i morti del terremoto del 1703 e ci si maschera solamente il martedì grasso. Marco, il commerciante, guarda la televisione e il nonno va al bar con gli altri vecchi. L'Aquila non è più quella de naote, non si va più a iu bar, non nengo è più, e non ci sta più iu terremoto. Il cadetto, uomo d'azione, ma anche di cultura, studia, si informa, e alcuni amici ingegneri gli dicono che a via 20 settembre, dove abita lui, in caso di terremoto ci sarebbe un alto rischio di crollo, perché lì gli aquilani una volta ci buttavano i materiali di risulta di altre costruzioni. E il cadetto Francesco è preoccupato, perché la sua bella amata è invalida, e gli dice: in caso di scossa forte tu scappa fuori, mettiti in salvo, non pensare a me. Ma come si fa? Come si fa a non pensare alla propria amata? Quando la terra trema, si sente prima un rumore, sordo, profondo. Poi trema. È quel rumore che terrorizza la dottoressa Assunta. La prende allo stomaco. Quei giorni è sconvolta e arrabbiata, perché fuori l'Aquila nessuno sa che ci sono continue scosse di terremoto. Non ne parla la TV, non i quotidiani nazionali, nessuno. Un giorno Casalmonte ascolta un telegiornale della RAI durante il quale passa la notizia di un terremoto del terzo grado Richter a Messina, e dell'Aquila niente. Allora, incredula, va a Roma a trovare dei suoi amici giornalisti che scrivono su Repubblica e gli chiede: perché non dite niente? Perché dell'Aquila non passa la notizia? E i suoi amici giornalisti gli dicono che forse sei tu che sei troppo spaventata. Se ci fosse davvero pericolo, allora si saprebbe. Ma la dottoressa Assunta stacca il quadro da sopra il letto, prepara sempre delle scarpe sull'uscio della porta e non parcheggia mai la macchina in garage. Ci sono uomini che si fanno cullare dalla voce del pagliaccio nero e altri che diffidano. E così fra i cittadini si crea via via una frattura, una faglia. Il 30 marzo, all'Aquila, la terra balla ancora. Una scossa del quarto grado Richter procura un numero considerevole di danni. Il sindaco Cialente ha la responsabilità della città, ma che si può fare se non si conosce il nemico? Il suo amico sciamano è stato messo fuori gioco dagli arcieri del re, e allora ordina la chiusura di tutti gli edifici scolastici ed effettua, in collaborazione con la provincia dell'Aquila, una serie di sopralluoghi per la stima dei rischi strutturali vigenti. Il sindaco e gli altri saggi della città intravedono un preoccupante aumento dell'attività sismica e pertanto chiedono d'urgenza una riunione ad hoc della Commissione Grandi Rischi. Detto, fatto. La sera stessa il re Melchior Guido Bertolaso chiama subito l'assessore regionale alla protezione civile, la dottoressa Daniela Stati. Ciao, sono Guido. Guido Bertolaso. Caspita, che onore! Ciao Guido, come stai? Bene, bene, bene, bene. Senti, ti chiamerà il mio vice, De Bernardinis, per organizzare subito una conferenza lì all'Aquila, in modo da zittire qualsiasi imbecille, placare illazioni, preoccupazioni. Hai capito? Sì, sì. Ecco, però devi dire ai tuoi di non dire che non ci saranno scosse più forti. Ho sentito che è uscito un comunicato... Ma siete matti? Con il terremoto bisogna essere molto prudenti. Come ti sbagli, ti trema la terra sotto i piedi. Hai capito? Sì, sì. Comunque, non ti preoccupare, ora la risolvo io. Domani verranno Boschi, Barberi, Zamberletti e tutti i luminari della sismologia. Più che altro organizziamo un'operazione mediatica. Hai capito? Sì, sì. Ecco, allora loro, che sono i massimi esperti di terremoto, diranno che è una situazione normale, sono fenomeni che si verificano. Meglio che ci siano 100 scosse del quarto grado Richter piuttosto che il silenzio, perché 100 scosse servono a liberare energie. Non ci sarà mai la scossa, quella che fa male. Hai capito? Sì, sì. Mi raccomando, eh. Allora, niente, ora ti saluto. Un bacio, ciao. E il 31 marzo, il giorno dopo, accadde il miracolo. I re magi perdono il lume della ragione, ma trovano la luce. La stella cometa del divin pagliaccio si posa su Palazzo Sironi. E i re magi si inchinano a quella luce che fin lì gli ha illuminato la via. Si narra che vennero in molti e da molto lontano per discutere di quei fastidiosi tremori che tanto di demoniaco hanno. Si riunì tutto il gota della sismologia nazionale e venne la protezione civile e venne l'NGV e venne il Centro Nazionale Terremoti e venne... E vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Ma perché? Non hai il pass. Alla riunione non fu invitato lo sciamano. Eresia. ma neanche i geologi locali, come De Luca e Moretti, che conoscono perfettamente il sottosuolo dell'Aquila, sanno quali sono i reali pericoli. Spacca la pietra e leggi! L'Aquila sorge su un pacco di sedimenti lacunari e lacustri e poi infilano uno strumento che si chiama accelerometro e capiscono che il sottosuolo dell'Aquila funziona da amplificatore naturale dei terremoti. È scritto tutto in uno studio di De Luca, conservato negli archivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il protocollo SSRT 9615. La conformazione geologica del sottosuolo dell'Aquila amplifica la potenza di un terremoto di ben 10 volte. De Luca verifica la sua scoperta con il terremoto dell'Umbria Marche del 1999 e, una volta certo, rende pubblica la sua scoperta e rilascia alcune interviste nelle quali spiega questo fenomeno naturale. E dopo lo studio, dopo le interviste, De Luca trova una lettera sul suo tavolo. E dopo la lettera De Luca ha fatto il postino, il magazziniere, il facchino, fotocopie. Peccato. C'era tutto il tempo per cominciare a mettere in sicurezza gli edifici pubblici della città. Ma non si può, ma sono tanti, ma non tutti. Magari ad iniziare da quelli riportati nel rapporto Barberi. Ma ora sono passati 10 anni e le cose sono cambiate. Ding dong! Venga anch'io! No, tu no! Venga anch'io! No, tu no! Venga anch'io! No, tu no! Ma perché? Perché non hai il pass. E senza pass non si passa. Tuttavia, in serata, viene pubblicato un verbale della riunione. No, no, no, no, no, no. Tuttavia, in serata, viene rilasciato un comunicato... No, no, no, no. Tuttavia, la sera, dalla dichiarazione dei presenti, si apprende quanto segue. Lo sciame sismico che interessa l'Aquila da circa 3 mesi è un fenomeno geologico tutto sommato normale, che non è il preludio ad eventi sismici parossistici. Anzi, il lento e continuo scarico di energia, statistiche alla mano, fa prevedere un lento diradarsi dello sciame con piccole scosse non pericolose. E ora la parola a Balda Senso Boschi. I forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile che ci sia a breve una scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta. La possibilità di danni alle strutture, alle fondazioni degli edifici, veniva esclusa a priori dall'intera commissione Grandi Rischi, compreso il re Gaspar Franco Barberi. Insorge il cadetto Francesco. Eh no, mio re, mio sire, mio magio, io non accetto tale oltraggio. Il rapporto Barberi, tu l'hai redatto. L'elenco degli edifici a rischio, tu l'hai fatto. E ora rinneghi, escludendo danni agli edifici. Signori, signori, temete questo re. È capace di terribili malefici. Qualcosa si muove nelle persone. La faglia si muove. Ma com'è che sto terremoto non se placa? Che facemo qua tra? Se naiemo o restemo? Qualcosa si muove nelle persone. La faglia si muove. O stai di qua o stai di là. Il 2 aprile, il giorno successivo alla riunione, il sindaco Massimo Cialente non è convinto. Rimangono i dubbi e le perplessità sulle conclusioni della riunione. E allora, navigando a forza contro la corrente della rassicurazione e dell'ottimismo, porta la giunta comunale a deliberare una formale richiesta per lo stato di emergenza delle zone colpite dal sisma del 30 marzo. Queste le parole. In relazione ai gravi e perduranti episodi di eventi sismici, il cui inizio risale al 16 gennaio scorso, sotto forma di sciame sismico di complessive 200 scosse e oltre, culminato con scossa del quarto grado il 30 marzo scorso, chiedesi congruo e urgente stanziamento di fondi per prime necessità, nonché dichiarazione stato di emergenza ai fini dell'effettuazione dei necessari interventi di ripristino idoneità degli edifici pubblici e privati. Inoltre si segnalano in particolare gravissimi danni strutturali in due edifici scolastici ospitanti 500 alunni. Una richiesta ragionevole e anche una missione di paura, spedita per raccomandata al Dipartimento di Protezione Civile. Una raccomandata recuperata dopo fra le macerie degli edifici comunali. La faglia si muove. O stai di qua, o stai di là. Poi ti alzi tardi la mattina, con una stanchezza atavica che non ti passa. Una tela appiccicosa, guardi fisso oltre la finestra e senti quel tremore profondo di fondo. Passa via, resta un eco d'angoscia, un suono che prima ti scuote e poi senti. Passa via, molla la presa, la biscia, un rumore interno di mostri furenti. Poi trovi assurde giustificazioni a quei pensieri tentacolati che lasciano occhi sgranati d'angoscia. Guardi il monte, il tuo punto fisso, e senti quel rumore profondo dal fondo. Passa via, resta un eco d'angoscia, un suono che prima ti scuote e poi senti. Passa via, molla la presa, la biscia, un rumore interno di mostri furenti. Passano i giorni, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, la terra trema, trema, trema, trema, trema, trema, trema, trema, trema. Sono ormai 4 mesi di scosse continue. Struscio per il centro? No. Aperitivo al bar? No, no. I cittadini sono ormai esausti. Qualcuno, pochi, scappano dalla città. Tutti gli altri restano. Sono gli uomini della protezione civile, ormai redenti dal divin pagliaccio, che ne evangelizzano il verbo. Abbiate un atteggiamento di calma, di serenità. Non fatevi prendere da psicosi. E Marco, il commerciante, guarda la televisione. Allo stato attuale delle conoscenze, i terremoti non si possono prevedere. Martella il re Baldassenzo Boschi, che tutto contento e orgoglioso continua a ripetere: su via ragazzi, ad oggi i terremoti non si possono prevedere. E il cadetto Francesco perde la pazienza. Venite pure avanti, laureati, scienziati, accademici, io adoro avere voi come nemici. Ucciderò con questa mia spada la vostra colta masnada. Se un evento non si può prevedere, non significa che non possa accadere. Ossia, se tiro ai dadi, non posso sapere se esce il 6, ma il fatto che non possa uscire io non lo escluderei. Sono dunque davvero così ingenuo o sciocco? Fine della licenza. Io non perdono e tocco. Ma la protezione civile, la più forte del mondo, in 4 mesi di scosse sismiche, non ha predisposto un piano di evacuazione. Non ha fatto una sola esercitazione che fosse una. Non ha spiegato alla popolazione cosa fare in caso di forte scossa sismica e non ha ritenuto opportuno allertare i cittadini nemmeno quando è stato evacuato il capitano, che di solito è l'ultimo ad abbandonare la nave in caso di naufragio. Infatti, il 5 aprile è stata evacuata la prefettura, che è l'ente preposto a gestire le emergenze e l'ordine pubblico. Dal racconto di alcuni confidenti delle forze dell'ordine, il custode della prefettura sarebbe stato invitato dal prefetto vicario ad uscire dall'edificio e passare la notte in macchina, mentre intanto passava il messaggio di rassicurazione a tutti i cittadini. E la signora Ines? La signora Ines? Non lo sai. 98 no. anni? Va a dormire. Presto, come fanno tutti i vecchietti. Preparami un cappotto, un cappello, una vestaglia e una coperta. Metti tutto sopra la seggia innanzi alla porta. Mo, me vai a mettere il letto. Ma le calze, non me le leo, così stengo pronta a scappare fuori. Istruzioni pignole, dettagliate, che la signora Ines ha data al figlio. Alle 22.48, una scossa di 3.8 della scala Richter sveglia la signora Ines. Sì, e non è come le altre volte, e non l'aveva mai detto dal 14 dicembre, da quando la Terra ha cominciato a borbottare la sua minaccia. Dopo la scossa delle 22.48, la dottoressa Assunta lascia disperata la sua casa, la sua città, e va a dormire da una sua amica che abita in una villetta nuova ad un piano. A via 20 settembre risuona un nome. Rossana! Se la Terra decide di sferrare l'ultimo attacco, noi dobbiamo essere più lesti, più furbi e tirargli un pacco. Tu, mia bella amata, senza paura, senza vergogna, aggrappati alle spalle del tuo cadetto di Guascogna. Ma non ce ne saranno altre, perché la scossa più forte è questa. E la bella amata va a dormire, mentre lui, il cadetto Francesco, no, lui no, piedi sul divano, un occhio aperto e un occhio chiuso. Il 5 aprile è domenica, un giorno di festa, e lo sciamano è in giro a fare delle compere e riceve una telefonata di alcuni suoi collaboratori che lo avvisano che il suo marchingegno ha suonato più volte. Appena torna a casa si rende conto che il radon continua a salire anche dopo la scossa delle 22.48. Alle 23.15, un'altra scossa, magnitudo 0.4, il marchingegno continua a suonare, il radon anziché scendere continua a salire, sale anche la sua disperazione, realizza che la situazione è drammaticamente preoccupante, ma non può avvisare la protezione civile perché è stato da poco denunciato per procurato allarme. Allora chiama amici, parenti, conoscenti, gli dice: scappate fuori, uscite di casa. Una sua amica, Stefania Pace, lo chiama preoccupata per sapere se veramente la situazione è così preoccupante. Scappa fuori, esci di casa, gli dice. Lei, Stefania Pace, fa il giro del suo paese per far uscire amici, parenti, conoscenti. Altri vanno a dormire, rassicurati dalla protezione civile. La TV locale dà loro la buonanotte e li tranquillizza ancora una volta. Buona notte. Il 6 aprile 2009, alle 3.32 della notte, una scossa di magnitudo 6.3 distrugge L'Aquila e miete 309 vittime. Quella notte dormiva la signora Ines, con le calze. Finalmente aveva preso sonno. Il figlio la ritrova come l'ha lasciata, supina. L'armadio crollato sul suo letto si è aperto e un'anta spalancata ha creato il miracoloso ponte. Ngulo che botta, cacciame fuori. Il tempo di mettere il cappotto e il cappello e uscire, che il piano terra collassa portandosi appresso la camera da letto. Quella notte dormiva la bella amata, che urla forte il nome Francesco, ma lui è già lì, pronto, e la trova paralizzata nel letto. Avanti, avanti, mio amore eterno, dobbiamo uscire da questo inferno. Ma lei niente, avanti, avanti, le scosse continuano, ma lei niente. Lei vuole vestirsi prima di uscire. È il pudore delle donne. Poi cadono gli oggetti, le pareti si spezzano, ma il soffitto tiene. Il pavimento c'è ancora, le scale ci sono ancora. Avanti, avanti, siamo fuori, siamo vivi. Quella notte dormiva la dottoressa Assunta, lontana dalla sua casa, lontana dalla sua città. Quella notte dormivano gli amici, parenti, conoscenti di Stefania Pace e Giampaolo Giuliani, chi nei camper, chi in macchina, chi all'addiaccio sotto le stelle. Quella notte dormivano a Onna, in tre, in una camera da letto, un papà, una mamma e una figlia. Poi la casa ondeggia, il soffitto cade a pezzi, il papà si butta sulla figlia per proteggerla, poi la porta al sicuro sotto un architrave, poi fuori all'aperto, mentre tutto intorno la casa si polverizza. Solo a quel punto, solo a quel punto, si rende conto che indietro non sarebbe potuto tornare, che dietro è rimasta la mamma, la moglie di Marco, il commerciante. Quella notte dormivano Angela, Luciana, Luca, Marco, Davide, Alessio, Francesco, Michelone e altri 28 compagni, chi nelle camere da letto, chi nella sala studia dello studentato. Quella notte dormivano le famiglie borghesi di via 20 Settembre, Villa Comunale, Campo di Fossa. Quella notte dormivano in molti. E nel silenzio, si sente il terremoto. La faglia si è mossa, la frattura si è allargata. O stai di qua, o stai di là. Scricchiola. Il parquet del nonno scricchiola. Ogni volta che lo vado a trovare, lui è nel suo studio, dove il parquet scricchiola. Alle pareti libri, grandi, piccoli, antichi, libri. Il nonno è seduto alla scrivania, mangiata dei tarli, brutta bestia dei tarli. Sulla scrivania sassi, non sono sassi, spacca la pietra. Il nonno srotola la gobba e parla. Eh no, basta però. No, ma poco. Meno male. Questa è una favola spezzata, interrotta. Finirà più in là, nel futuro. Sarete voi giovani a scriverla, a chiuderla, perché voi siete gli artefici del futuro. È la vostra incoscienza che vi consente di sfidare l'ignoto. Una ricchezza che noi vecchi abbiamo perso nel tempo. Però ciò che noi conserviamo gelosamente qui nel cuore è la memoria, l'esperienza, la saggezza, la consapevolezza. Insomma, chiamala come vuoi. Ma è quella cosa che sappiamo contattare ogni volta che dobbiamo decidere se stare di qua o di là.